Capitolo 5. Lettere da casa. Per le 3 settimane successive, Anna e Priscilla continuarono a sentirsi straniere in terra straniera. Poi, improvvisamente, tutto parve andare a posto. Redmond, i professori, le classi, gli studenti, gli studi e le relazioni sociali. La vita acquistò una sua omogeneità e smise di presentarsi come un insieme slegato di frammenti. Le matricole, invece di essere una folla di individui senza rapporti, si organizzarono in classe con uno spirito di classe, interessi di classe, antipatie di classe, ambizioni di classe e un proprio grido di guerra. Vinsero la gara annuale contro i sophomore e si guadagnarono il rispetto di tutte le altre classi e un'enorme, esaltante opinione di se stessi, giacché per 3 anni consecutivi i sophomore avevano vinto quella gara. La vittoria di quell'anno, scritta a chiare lettere sul vessillo delle matricole, i gloriosi freshmen, fu attribuita all'abilità del loro capitano, Gilbert Blythe, che diresse la campagna inventando nuove tattiche che demoralizzarono i soph, conducendo i fresh al trionfo. Come riconoscimento, Gilbert fu eletto presidente dei freshman, posizione di onore e responsabilità, almeno dal punto di vista di un fresh, molto ambita. Venne anche invitato a unirsi ai LEMB, un segno di stima raramente conferito a una matricola. Prima di entrarvi, dovette sottoporsi a una prova di iniziazione consistente nel passeggiare per una giornata intera per le vie principali di Kingsport, con indosso un cappellino da sole e un grembiulone da cucina assai voluminoso, in un allegro tessuto a fiori. Gilbert si sottopose allegramente a questa prova, togliendosi con grazia cerimoniosa il cappellino da sole ogni volta che incrociava una qualche dama di sua conoscenza. Charlie Sloane, cui non era stato proposto di unirsi ai Lamb, disse ad Anna che proprio non capiva come Blythe avesse potuto fare una cosa del genere. Lui, da parte sua, non avrebbe mai potuto umiliarsi fino a quel punto. Charlie Sloane sarebbe delizioso con un grembiule di cotone a fiori e un cappellino da sole, ridacchiò Priscilla, identico alla sua vecchia nonna Sloane, ci scommetto. Gilbert invece è ancora più maschio in quell'abbigliamento che in abiti normali. Anna e Priscilla si trovarono nel cuore della vita sociale di Redmond. Accadde assai in fretta, in gran misura per merito di Philippa Gordon. Philippa era figlia di un uomo ricco e molto noto e apparteneva a un'antica ed esclusiva famiglia della Nuova Scozia. Questo fatto, unito alla sua bellezza e al suo innegabile fascino, un fascino riconosciuto da tutti quelli che la incontravano, le aprì in un baleno i cancelli di ogni club, compagnia e classe di Redmond, e dove lei entrava, entravano anche Anna e Priscilla. Phil le adorava, in special modo Anna. Era una ragazza leale e limpida, limpida come il cristallo e aliena da ogni forma di snobismo. Se mi ami, ama i miei amici, sembrava essere il suo motto inconscio. Senza sforzo le condusse con sé nell'ampia cerchia delle sue conoscenze, sicché le due ragazze di Avonlea fecero con grande facilità e in maniera piacevole il loro ingresso nella buona società di Redmond, destando l'invidia e lo stupore delle altre frescette che, mancando della protezione di Filippa, dovettero rassegnarsi a rimanere ai bordi della vita sociale per quel primo anno di studi. Agli occhi di Anna e di Priscilla, con la loro visione più seria del mondo, Phil rimaneva la bambina divertente e amabile che le aveva attratte fin dal primo incontro. Eppure, come aveva detto lei stessa, la ragazza aveva un sacco di cervello. Quando o dove trovasse il tempo di studiare era un mistero per tutti, perché sembrava sempre in cerca di qualcosa di divertente da fare e le sue serate in casa trascorrevano sempre in allegra compagnia. Aveva tutti i ragazzi che poteva desiderare, perché i 9 decimi delle matricole e una grande fetta degli studenti delle altre classi erano pronti a gettarsi nel fuoco per un suo sorriso. Lei ne era ingenuamente compiaciuta e raccontava con gioia di ogni nuova conquista ad Anna e a Priscilla con commenti che avrebbero fatto diventare rosse le orecchie dello sfortunato spasimante. Alec e Alonso non sembrano ancora avere nessun serio rivale, notò maliziosa Anna. Nessuno, confermò Filippa. Io scrivo a entrambi tutte le settimane e racconto loro tutto dei miei ragazzi. Sono sicura che si divertono un sacco, però non riesco a conquistare quello che mi piace di più. Gilbert Blythe non mi degna di un'occhiata che non sia quella che dedicherebbe a un gattino cui volesse dare una pacca sul naso. Conosco troppo bene la ragione, perciò dovrei invidiarti, regina Anna. In realtà dovrei odiarti invece di amarti tanto e sentirmi infelice al pensiero di vederti tutti i giorni, ma sei diversa da tutte le ragazze che ho conosciuto finora. Quando mi guardi in un certo modo mi sento una nullità frivola e insignificante e vorrei essere migliore, più saggia, più forte. Allora faccio buoni propositi, ma... il primo ragazzotto di bell'aspetto che incontro me li spazza via tutti quanti dalla testa. Non è magnifica la vita universitaria? È così buffo pensare che la odiavo tanto il primo giorno. Ma se non fosse stato così non avrei mai potuto conoscervi. Anna, ti prego, dimmi ancora che ti piaccio almeno un pochino. Lo desidero tanto. Mi piaci un grandissimo pochino e penso che tu sia una cara, dolce, adorabile, morbida, piccola gattina priva di unghie, rise Anna. Ma non capisco dove trovi il tempo per preparare le lezioni. Filippa il tempo doveva trovarlo, poiché non mancò a una sola lezione del suo anno. Persino il bisbetico vecchio professore di matematica, che detestava le studentesse e che si era fermamente opposto alla loro ammissione a Redmond, era stato incapace di stenderla. Era in testa alle frescette in tutte le materie, tranne che in letteratura, dove era ampiamente superata da Anna Shirley. Quanto ad Anna, trovava gli studi del primo anno assai facili, soprattutto grazie al duro lavoro che lei e Gilbert si erano sobbarcati nei 2 anni precedenti ad Avonlea. Questo le lasciava più tempo libero per la vita sociale e ciò la rendeva felice. Ma nemmeno per un attimo dimenticò Avonlea e gli amici che aveva laggiù. Per lei i momenti più felici della settimana erano quelli in cui riceveva lettere da casa. Fu soltanto dopo aver ricevuto le prime missive che cominciò ad accettare Redmond e a pensare che avrebbe potuto sentirsi un po' a casa sua. Prima di ricevere posta, Avonlea era sembrata lontana 1.000 miglia. Quelle lettere, però, gliela riportarono vicina e agganciarono la vecchia vita alla nuova, rendendo l'una la continuazione dell'altra, anziché farne 2 vite nettamente disgiunte. Il primo arrivo fu molto consistente. Comprendeva infatti 6 lettere di Jane Andrews, Ruby Gillis, Diana Barry, Marilla, la signora Linde e Davy. Quella di Jane era una vera e propria incisione, con il taglio di ogni T dolcemente svolazzante, il puntino della I finemente cesellato e nemmeno una frase interessante. Non nominava una sola volta la scuola, delle cui notizie Anna era letteralmente avida, e non rispondeva nemmeno a una delle domande che le aveva posto. In compenso informava Anna con precisione su quanti metri di merletto aveva ricamato e su che tempo faceva ad Avonlea, e le descriveva con minuzia come intendeva fare il suo nuovo vestito e come si sentiva quando le veniva il mal di testa. Ruby Gillis scrisse una lettera vuota lamentando l'assenza di Anna, comunicandole quanto le mancasse in ogni momento, domandandole come fossero i maschi di Redmond e riempiendo lo spazio restante con la lista delle sue strazianti esperienze con i suoi numerosi ammiratori. Era una lettera sciocca e innocua, e Anna ne avrebbe riso se non fosse stato per il postscritto. Sembra che a Gilbert Redmond piaccia a giudicare dalle sue lettere, scriveva Ruby. Non mi pare invece che Charlie ne sia così innamorato. Così Gilbert, scriveva Ruby. Bene, benissimo. Oh, se era per quello ne aveva tutto il diritto. Solo che Anna non sapeva che Ruby aveva scritto per prima e che Gilbert aveva risposto per pura cortesia. Gettò perciò da parte con disprezzo la lettera di Ruby, ma toccò alla lettera fresca, densa di notizie e deliziosa di Diana, spegnere in lei la stizza per il proscritto di Ruby. A dire il vero, la lettera di Diana parlava un po' troppo di Fred, ma era piena zeppa di informazioni interessanti. Nel leggerla, Anna si sentì trasportata ad Avonlea. La missiva di Marilla era incolore, un po' affettata, del tutto priva di pettegolezzi e di emozioni, ma Anna Vi lesse qualcosa che le riportò una ventata della vita sana e semplice di Green Gables, con il suo sapore quieto di pace antica e l'amore costante e immutabile per lei. La lettera della signora Linde era piena di notizie sulla chiesa. Dovendo lavorare assai meno in casa, la signora Linde aveva molto più tempo da dedicare alla parrocchia e vi si era buttata anima e corpo. Al momento era oltremodo turbata dall'avvicendarsi dei poveri supplenti sul pulpito vacante di Avonlea. «Sono convinta che oggigiorno siano solo gli sciocchi a decidere di fare i pastori», scriveva con amarezza. «Un così gran numero di candidati al nostro tempio e tutti così banali quando predicano. Per la metà non suonano sinceri e quel che è peggio sembrano non conoscere la dottrina. Quello che c'è adesso è il peggiore di tutti. In genere sceglie un testo e poi dice tutt'altra cosa». Sostiene inoltre di non credere affatto che i pagani saranno perduti per sempre. Che idea! Se non lo saranno, tutti i soldi che abbiamo mandato per le missioni in terra straniera andranno perduti, che diamine! Domenica ha annunciato che avrebbe basato il suo prossimo sermone sulla pena di morte. Ritengo che sarebbe assai meglio se si limitasse alla Bibbia e lasciasse da parte gli argomenti sensazionali. Si prospettano tempi assai duri se un ministro del culto non trova nelle sacre scritture materia sufficiente per le sue prediche. Che chiesa frequenti, Anna? Spero che tu ci vada regolarmente. La gente è portata a trascurare le funzioni religiose quando è lontana da casa, e gli studenti universitari, sotto questo aspetto, sono i peccatori più grossi. Mi hanno riferito che molti di loro scelgono in realtà la domenica per studiare. Mi auguro che tu non cada mai tanto in basso, Anna. Rammenta come sei stata educata e stai bene attenta agli amici che ti fai. Non saprai mai che genere di persone si trova nell'ambiente universitario. Fuori sono come sepolcri imbiancati e dentro sono lupi affamati. Ecco che cosa sono. Faresti meglio a non parlare con nessun ragazzo che non provenga dall'isola. Ah, ho dimenticato di scrivere che cosa è accaduto quando il pastore è venuto a farci visita. È stata la cosa più buffa che abbia mai sentito. Ho detto a Marilla, se Anna fosse qui, non scoppierebbe a ridere. Persino Marilla rideva. Tu sai che è un ometto corto e grasso con le gambe a ruota. Bene, il vecchio maiale del signor Harrison, quello grande e grosso, quel giorno girava qui intorno e si è infilato nel cortile, andando a finire sotto il portico posteriore senza che noi ce ne avvedessimo, ed era proprio lì quando il pastore si affacciò sulla soglia. Il maiale fece un gran balzo per scappare, ma non c'era un buco se non quello tra le gambe a ruota del nostro ministro del culto. E proprio lì è andato. E dal momento che lui era così grosso e il pastore così piccolo, l'ha sollevato pari pari da terra e se l'è trascinato via. Il cappello gli è volato da una parte e il bastone dall'altra, proprio mentre Marilla ed io ci affacciavamo alla porta. Non dimenticherò mai il suo sguardo, vivessi 100 anni, e quel povero maialone era spaventato da morire. Non riuscirò mai più a leggere quel passo della Bibbia in cui si parla del porco che si lancia a precipizio da una rupe scoscesa dritto nel mare, senza vedermi il maiale del signor Harrison che se ne scende giù dalla collina con il ministro in groppa. Il maiale avrà pensato di avere il demonio sul groppone anziché nel ventre. Ho ringraziato il cielo che i gemelli non fossero da quelle parti. Non sarebbe stato educativo per loro vedere un ministro della Chiesa in quella posizione così poco edificante. Proprio prima che loro arrivassero al ruscello, il pastore saltò giù dal groppone e cadde a terra. Il maiale attraversò il ruscello come impazzito e si lanciò nel bosco. Il pastore sembrava ritenere me e Marilla responsabili di tutta la faccenda, sebbene gli ripetessimo che il maiale non ci apparteneva e che ci stava seccando da tutta l'estate. D'altro canto, perché mai era entrato dalla porta sul retro? Il signor Allan non l'avrebbe mai fatto. Ne passerà del tempo prima che si trovi un altro signor Allan. Ma quello che soffia male è un vento malato, come si sa. Da quella volta non abbiamo più visto né un pelo né uno zoccolo di quel porco e spero che non si vedrà mai più. Tutto procede bene ad Avonlea. Non trovo Green Gables così solitario come pensavo. Quest'inverno comincerò un'altra coperta. La signora Sloane conosce un nuovo ricamo a foglia di mela assai grazioso. Quando ho bisogno di un po' di emozione, leggo la cronaca nera sul giornale che mia nipote mi manda da Boston. Non l'ho mai fatto, ma è davvero interessante. Gli Stati Uniti devono essere un posto terribile. Spero che tu non ci andrai mai, Anna Shirley. Pensare alle ragazze che vagabondano per il mondo è terribile. Mi ricordano Satana nel libro di Giobbe che va avanti e indietro e viaggia su e giù. Non credo che il Signore l'abbia mai voluto, che diamine. Davy si comporta come un angelo da quando te ne sei andata. Un giorno è stato cattivo e Marilla l'ha punito facendogli indossare per tutto il giorno il grembiule di Dora. Lui allora è andato a tagliare a strisce tutti i grembiulini di Dora. Io perciò l'ho sculacciato. E lui ha rincorso il mio galletto fino allo sfinimento. I MacPherson si sono trasferiti da me. Lei è una magnifica donna di casa, veramente notevole. Ha sradicato tutti i miei gigli, dicendo che davano al giardino un aspetto disordinato. Li aveva piantati Thomas subito dopo il nostro matrimonio. Suo marito sembra un'ottima pasta d'uomo, ma lei non smette mai di essere una vecchia zitella, che diamine. Non studiare troppo, stai tranquilla e metti la maglia di lana sulla pelle ai primi freddi. Marilla si preoccupa moltissimo per te, ma io le ripeto che tu hai molto più buon senso di quanto credessi e che tutto andrà bene. La lettera di Davy iniziava con una lagnanza e continuava con vari strafalcioni senza badare alle maiuscole e alla punteggiatura. Cara Anna, per favore scrivi a Marilla e dille che non mi leghi al parapetto del ponte quando vado a pescare con i miei amici, che ridono tutti quando lo fa. Ah, senza te qui è come se non c'è nessuno, ma a scuola ci si spassa. Jane Andrews è più bisbetica di te. Ieri sera ho messo paura alla signora Linde con una lanterna da marinaio. Lei era arrabbiata matta, ed era arrabbiata matta perché avevo rincorso il suo galletto per tutto il cortile finché è caduto stecchito. Io non volevo farlo morire. Che cosa l'ha fatto morire, Anna? Vorrei saperlo. La signora Linde l'ha buttato nel recinto dei maiali che poteva venderlo al signor Blair. Il signor Blair dà 50 soldi a pezzo per un buon gallo. E quindi ho sentito la signora Linde chiedere al pastore di pregare per lei. Vorrei sapere, Anna, che cosa ha fatto di tanto cattivo. Ho fatto un aquilone con una coda, Super Almighty Bowlter. Ieri a scuola mi ha raccontato una magnifica storia. È vero. Una notte, l'ultima settimana, Joe Mosey e Leon giocavano a carte nei boschi. Le carte erano poggiate su un trespolo e un grosso uomo nero, più alto degli alberi, è arrivato e si è preso le carte e il trespolo ed è scomparso con un rumore come un tuono. Scommetto che hanno avuto paura. Miles ti dice che l'uomo nero era il vecchio Harry. Se lo era, vorrei saperlo, Anna. Il signor Kimball, di vicino Spencer Valley, è molto malato e ha dovuto andare all'ospedale. Per favore, scusami mentre chiedo a Marilla come si scrive una parola. Marilla dice che non era all'ospedale, ma all'ospizio che doveva andare. Lui pensa di avere dentro un serpente. Come ci si sente con un serpente nelle interiora? Io voglio saperlo, Anna. La signora Lawrence è pure malata. La signora Linde dice che il problema con lei è che bada troppo alle sue interiora, che sarebbe meglio andasse in chiesa e non facesse tante storie. Mi domando, disse Anna riponendo le lettere, che cosa mai penserebbe di Filippa la signora Linde?